Fiore, fior sole, fior sole, fior sole. Assente, marmorino, marmorino, quattro. Assente, marino, marino, marino. Assente, fior squalo, quattro. Perché? Bello signor Bacchi! Ah, drobbi tutto, ci va Bacchizio! Ah, è marinerato! Mate dolce! Mate dolce, buonasera! Buonasera a me, a lei, buonasera a tua Maria! Tommari! Ehi! Io aspetto un po' più pio pio a Bacchizio! Pronto! Buonasera a Bacchi! Ah, oh, sì, pio pio, Tu hai arrivato bene, sto! Buonasera comunque a tutti e due! In cantina sono domani, in cantina Colluccio. Oh cazzo, invece peggiorare, devo peggiorare, ma chi mai insomma, cazzo. Dai, cosa vivo per noi? La mascola 18enne. Avanti, sia solo, lei con la mia coppia. Ah, io ti accoppio benissimo. Radio forte, e segnale forte. Andate! Ehi, ho messo la capo, c'è quella che ho comprato. In quel microfono lì? C'è il nostro. È il MP4. Ma se scendi i voci? Ha voglia, se sta andando bene. Già sta funzionando bene, sì. Meno male. Meno male che sta andando bene. Se sono più pronto, sono in carriera. Ah, ho lasciato lì. E già non è così. Avanti signor Giovanni. Eccomi qua, adesso sta uscendo bene. All'inizio la sua parte fatta, però adesso va bene. Va bene giù da chi, visola, c'è tempo ancora, ma chi? Forse è meglio che ti avvicini un po', ma chi, perché non ti senti. Oh, ti sento da lontano. Ma lui non ti sente. Adesso che mi senti. Ma va sì. Vai Giovanni se lo senti. Adesso sì, ma prima era proprio pio pio, Cos'è che stai combinando, Bacchi? Aiuto, va. Giulio. Io non ricordo te, avanti se la prenda signor Bacchi questa medicina. Ti stavo chiamando, non dove va? Ieri era impegnato sto Bacchiglio, era impegnato ieri sera, ma oggi no, oggi già è fra di voi. Ho femminucce ero io. Guardate che io ho femminucce. Anche a femminucce. No, ieri ero in guerra con un baracco. Ma io sono entrato allora. Mi sono sorta, ho detto, ma non va. Te l'ha giudito io. Sì. No, è solo. Un inter che era, portatile. Se si occupa terra, qui la funzione di un gioiello. Oh, hai visto che ti ha dato Giovanni? O l'altro? Ah, visto Giovanni. Andava a sentire e si chiudava, si andava allora a Parigi, contro la Parigi, non si sa forse, dove sono rapido, dove torna in Camarina. Alla fine ha detto, aveva messo con un pizzo, poi gli aveva detto, ferma, lì si è assiso e favitava. Qualche cosa di massa era, Bacchi. Qualche cosa di massa si è rimessa a posto. Dove sa come la costruire, ma proprio in questa collera, già oggi una ferita, non mi dirò fatto. Adesso Giovanni, vissurai. Ma Bacchi si riesce a tutto, Ma mi pare che sia posto qua, chi lo so se tu vengono da terra. Ma quel polizia funzionava, vuol dire che spero Bacchi. Thank you. col microfono fa così, quando ti allontani esci più basso, sì. Parla, signor Bacchi. Sento delle piccole scariche, Gianmarie. Come? Io sento delle piccole scariche, tipo portante. Ma da me? No, qua, da me. Sento ormai in lontananza, però, qualcuno magari si splacca, capito? No, qualcuno che sta mettendo la portante però bassa, bassa. E pio pio Bacchi. Ehi, vabbè, a me non mi disturba. Però. Se lo dovresti avvicinare un pochino di più. No, stavo già. Forse ho sbagliato, con un altro filo, perché c'era un filo scattato all'interno. E io con l'altro. A indovino sono andato, no. Basta perché me lo dicessi e ti davo lo schemino dell'MP4 e l'MP5. Non voglio volere, perché strano. Siamo al cambiamento un paio di volte. Già te lo faccio avere, ti faccio la fotocopia. Sì, ma con le radio è chiara, limpia, perché qua no. Ha voglia. Radio 5 è perfetta. Perfetta, perfetta, io sia la moglie è perfetta. Fai di Roma a pesci. Vuol dire che ci gusti, però Gianmarie. Sì, adesso va bene. Adesso va bene, Bacchi. Ma non so il buono, il buono che si muovia. Ehi, ehi, ehi, lascia la stanza, sentimi giù la bocca, di nuovo guaio. Dove è così, sto? Infatti, ma dovrebbe amplificarsi anche quel microfono. Certo. Certo, che quel microfono lì si dovrebbe amplificare anche. Ehi, ehi, ehi, ho amplificato la bocca. Dove? Fai il suo, tira di trutto, infatti. Infatti, mi avevo tornato, senza capo, qua. E ci sono tutti incastrati. Cari, dai, per carità, tanto non mi piace apprezzare la cosa a me, dopo idea di distruggini. Meglio nulla. Ah, così mi hai dato, non ti ho lasciato modificazione funzionale, è pure i banani, hai detto, è attaccato lo so. Alla vecchino. Certo, non lo gioco io, boh. Certo, c'è quello dei calabresi e te lo distruggi e te ne odorano i tappeti. Non andare. Io non so già cosa è ciò. Non pensavo non da nessuno, se non conosci la pecora. Infatti, è così. Me ne ho presa nulla. Ma come ci sono tipo di truggini? Ero Gianmarie. Roba nuova qua fuori, sto, roba nuova. La roba vecchia bisogna buttare i cazzoletti, perché tanto di mattanetti lo capo è sempre così. Fai come faccio io, Bacchi, la roba vecchia la butto dentro il cazzoletto. Se posso me ne compro nuovo, se posso. Se no tira a capare così. Adesso ti sei abbassato, Sono, a Rosetta. Oh, che nulla, c'è il Bacchi, c'è il Tavizzini, c'è a terra, Forse sì. A chi ti deve avvicinare un bel pa intenditi. Un attimino sta. Un attimo sto, mica rientro su. Sei a Gianmarie. Pacchi, non ci compresi, non da nulla. Dici ciò che hai detto. Forse è meglio. fosse meglio, perché la sua com'era? E adesso mi ascolti. Forte e chiaro. E qua, non si fa il male. Questo è un po' il male. Sì. Infatti così è. Il palmare esce più forte. Sai cosa è ciò? Quello là. Qualcosa c'è in quelli che sono per te, che ho soldati, non si comprende nulla. I soldati li fatti con quegli impegni. Adesso lo so fare, ma non si riesce a correggere. Ma chi? Quello lì, se te l'hanno toccato. A metterla a posto è un bel difficile. Mi dovrei comprare uno nuovo. Il regalo per Natale, là. Ma già ce ne sono di MP4 in vendita, MP5. A poco prezzo. Dove hai visto? Su coso, su eBay oppure sul coso di... Come ti si chiama? Sul telefono, sul coso dei radioamatori. Bisogna vedere, 50 euro si possono anche giocare, a scatola chiusa. Proprio 50 euro su eBay, ti trovi 54 euro, nuovo. Temi nuovo. No, nuovo, 54 euro. Sì, ci vuole poi di Torino, ho fatto pagare un microfono palmare della Midland, 28 euro, e lo porterò più. Bisogna vedere, ma chi se entri su eBay e guardi, cioè sono 54 euro, ne ho visto io, nuovi. Non ci riesco a entrarci, non la sapo più, mi stai fuggito. Tata che andiamo a muovere. Ah, già sta, fa vedere con te che entra a Baidu. Quando la sapo non mi fa vedere. E il blocco lo vedi otto. Aspetta che guardiamo, va. Marino, senti se vai, dove? Sono dall'altro giorno che non lo sento più. È cronestrato, non so se è ripreso o no. Sarà a letto. Sì, è malato. Cronestrato. Virus. Andiamo a vedere, signor Bacchi. Intanto il bar vicino a casa è chiuso. E quello vicino alla prima sera. Tutta la famiglia con il virus. Così è, certo. Mi ho trovato anche lo schema di dell'MZG MB più 5 schema. Che mi fai avere, già ci vediamo. Io mi auguro di poter camminare, grazie, siamo solo qui. Perché non riesci ancora, Bacchi? Piano piano. Già, la fare scala non va bene. Non andava io, mi farà dire che è rottura dura e mi tira i polpacci delle gambe, poi si sposta la cosa dal lombo al polpaccio, dal polpaccio al lombo, adesso è a trazione. Certo, gli andi per andi, non si può fare, no, è una cosa brutta. Ma non è che hai bisogno di essere operato, no? No, ormai sono scegliato la cosa, dal peso. Dopo troppo pesante la dottoressa. Ma che cacchio di pesante, Cata? Che cacchio pesante? Cata, quanto te ne pesi? 70, 80? 80 ne pesavo la tua volta. Adesso non mi sono preso che non mi peso. E già pesante. Allora, ma se la cura, sto facendo la cura. Due peli e un po' per giovinezza. Si sa bella. Due peli e buco. Sì, ma se non fa mi vado andare a via, mi faccio la pittorza. Ma non andare così, no. Certo. Quando muove andiamo. Beh, abbedene, va sul coso del radioamatore, ha già avuto... a radio il 7000, un amplificatore e un coso, è un segnale di più IPL, quelli PL per portateli anche. Come ti ho fatto? Io. Vabbè, da un giorno dopo lo spinotto, Bonifili, rosa, massa, giallo e nero. E che cos'hai della ZG? Però della ZG che va insieme al 440. Allora, schema, modifica, ZG MQ5, da adattare a Kenwood IS-440. La modifica, sì. Poi questo c'ha la modifica dell'amplificazione, che viene direttamente mandato alimentato dal King. Però parte dal 440. 740? No, 440. Ah, 440, sì. Ci vuole Munira. Munira. Sì, signor Bacchi. È un bel cosa, però. Una scheda con microfono e un alimentatore tipo quello che ho io e un altro gozu. Si stava, ci torniamo in danno. Allora, signor Bacchi, me MQ4 59 euro più 8 euro di spedizione. 64 euro. Poi ce n'è MQ5 70 euro più 9 euro. No, questo non è cattivo. È fattibile. Poi ce n'è un altro 56 euro 61 MQ4 e 8 euro e 99 di spedizione. 8,99 euro, quello è gentilissimo. Poi vedi tu, ZG. MQ5 30,50 euro, no, io ti ho offerto. Offerto, ma è callato. Poi c'è quest'altro, 84,90, 82,59, 71, 78. Anche se l'avevi avuto io prima. 53,90 MQ4. Già è così, sì. Più gli spezzoni ci sono. C'è Bacchi. L'MQ5. No, dico che sta troppo dal Regno Unito. 22 euro e 16 di spedizione. No, il Regno Unito va sul virus, il dolore. Niente il Regno Unito, questi si mangiano noi pure, si mangiano pure. E qua è... Attento Marino, qua serve. Otto, ma te li accusarono io. Mi sembra che 54 euro. No, me l'avevo chiesto io, ho detto che li ha finiti, ma non ne ordina più. Ma così è? Dora, no, così. Così mi ha risposto, che non ne aveva più, aveva già finiti. Oh. Vabbè, lo avevo imparato. Già, aveva finiti, li aveva di... L'avevo chiesto io quando sono salito. Ma quello ho usato lo conviene, più bene lo conviene prendere usato, magari nuovi sì, ma usato lo conviene, perché non si sa come sono sto. Anche quello c'è. Scatola chiusa, a scatola chiusa sto quello lì. È un macello, un macello che c'è il microfono, però se ci vuole bisogna bisogna tagliare per forza, se ci vuole. Ma io tre amplificati non li userò più, solo microfono normale, se va va, se non va mai si vecchia. Amplificato non li uso più. E io ho l'MPP5 e uno l'MPP4, poi ho l'Esaletta, neanche anche l'Esaletta Pro c'ho anche. Anche l'Esaletta, ma l'Esaletta quello con il braccetto flessibile. È tutto in pratica che si abbassa e si alza fino alla piatta del microfono, capito? Quella è la Pro Air. Quello rosa, rosso anzi era. Quello l'ho avuto io, poi l'ho dato a Emanuele, l'ho dato. Oh, Emanuele l'ho dato anche uno manuale amplificato. Mi sembra che l'abbia messo sul Galaxy. Già mi sta funzionando bene. Sì, ma questo tipo di gelato, quello lì, poi ne avevo uno americano, quello in alluminio bianco, preamplificato, me l'ha fatto la banana del Beniamino Mula, è antico, usciva benissimo, ogni linea di negozio. Ah, io vendi mille, oggi mi mangio una cattoriata, cioè dammi 100 euro, 100 mila banca, posso dirti io. A chi l'hai dato? A Emanuele. Oh, ma da morto? Sì, c'era 40 anni. E il cazzo allora, sa che ce l'ha fatto il microfono. Ma Beniamino, io sono andato alla stazione quando si trovava lì a Piazza Colonna Mariani, un paio di volte sono andato. Non li usava sempre i microfoni normali, però usava, sapeva che non trattavano la stampata. Già usava, i pirati lui dice, vieni che ascoltiamo i pirati, aiuto, sali su, ascoltai i pirati. Le sue storie facevano divertire, perché comunque gente dava ascoltano così Falcone ha fatto le cose, noi Falcone siamo dei migliori, andava a ascoltano e su qua storia finiva il capolario, io lui che l'ho imparato, oggi ho rivedito registrato e è venuto a trovarmi. Abitavo nelle campagne. Cosa è venuto? Cos'era 797? Cos'era 747? Dopo se l'ultima frase già abbiamo capito. Così è to. No, è uscito all'ultimo momento, poi si è cagliato mondo e poi all'ultimo si è uscito. A mettere gli ultimi paravoli. Sai cosa è? Il microfono è tirato, lo tiro quello che c'era proprio qui. E magari il paletto muovi, diciamo, lo accendi. Pronto, dai, ogni tanto mi devo sentare che sto facendo cose, dai, rientro dopo. Ehi, ok, Giovanni, ci risentiamo dopo. Io se capite che mi chiama mia moglie e ando a pigliarla, la mia figliura. Deve essere ancora una rientrata, mia figliura. L'avevo inventato, ma la nuova l'ha preso usato qua. No, a parola tu devi essere interessato, se no vieni a prendere. Sì, perché sono andato a prendere, a cambiare gli occhiali a mio nipote. E poi dovevo fare un'altra commissione. Chissà che non sia commissione longa. Magari ce l'hai passigendi. Ma sicuro. Sì, ha già udito il microfono Incom SM30. Originale. Sì, ma quello originale. C'è quello originale già locato. No, questo è originale, originale proprio. Ehi. Ehi, ci facciamo un pensierino, so. Oh, signor Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Non va bene, forse. Attenzione, signor Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Attenzione, signor Bacchisio! Aia! Medicaroni! Cos'è? Che ti fate male? Oi, Tore! Buonasera, buonasera, buonasera! Sono tu, ci sei qua? C'era Bacchisio! Oh, prima di uscire a prendere la signora, invece, da bui! Sto gioco durato, beh! Evidentemente sto facendo loro, io stavo togliendo dei mobili vecchi, tutto quanto, perché domani devono venire quelli dell'autoparco a caricarli. Oh, per carità, che giornata oggi pure. Perché che giornata è? Una giornata con la C maiuscola, Otto, una giornata con la C maiuscola. Vabbè dai, comunque già... per oggi è finito, ci ho tolto dei divani vecchi e un mobiletto che non serviva, adesso gli ho attaccato il numero, il codice, domani mattina vengono e caricano tutto. Ma uele. Ehi, non metti su! Ma sei sicuro che vengono domani? Ehi, ho chiamato ieri, gli ho detto che c'ho tre pezzi di divano e mi ha dato il codice, capito? Mi ha dato il codice loro e domani mattina vengono loro a prenderlo. Ma... poco perché ci vi passando io 3D? No, l'ho chiamato ieri per quella apposta. Cazzo pure 3D? No, che c'erano invece da voi 3D, c'erano imbigliati. Allora quando ti danno il numero, quando dà il numero poi vengono subito. Il giorno dopo vengono a prenderlo. E andiamo, e andiamo. Così se fanno in pulizia. Lo stavo dando una mano a mia cognata, togliere tutto e poi deve mettere la roba nuova, dai. Andiamo bene, andiamo. E Gio Maria, senti. C'era Gio Maria anche, poi si è dovuto allontanare. Non so il perché, o è venuta gente, boh. Non so se l'ascolto o se c'è gente. Sicuramente, se è venuta gente sì. Bacchisio deve essere che ha chiuso. Bacchisio come sta? Insomma, così è. Ma cosa sta prendendo? Sempre cultura sta facendo. No, ciò che sta prendendo altra roba. Quella che stavo prendendo io, non si vede nulla. Sono dalla 150 le cose, però sono accidenti. Non lo so. Ma adesso dice che le iniezioni non gli hanno fatto nulla. Ah, le ricloriu sono, sembrano una mazza. Le iniezioni? No, pastiglie sono. Non lo so se sta prendendo quelle o se sta prendendo altra cosa, non so nulla. Che se non si vuole buttare nulla? Non lo so. Non so c'è nulla. Ma sembrano accidenti. Piuttosto è così. Di peggio non si può fare. E tu? Esatto. Meglio stai tu. Così, dai, un po' di meno, sì. Un po' meglio, sì, dai. Andemmo. Ui. Purtroppo, mi hanno visori d'urori. Chissà che mi ho fatto da giovane, mi ho fatto di tronchi. Ma è il lavoro che facevo io pure. Il lavoro che facevo io mi ha spaccato proprio la schiena. Progettori di marmo, alzati di rimarmi dal terzo piano, quarto piano. Quello l'ho fatto anch'io, insieme ai muratori e ai carpentieri. Un conto a farlo, è un conto a farli anni o otto. Mi dirò che ho fatto bassi o no, fa un 10 anni. Poi la non trovo più lavoro, sono andato a lavorare, a fare cose qua con la ditta, anzi con la cooperativa prima era. È un lavoraccio quello lì, è un lavoraccio al cane quello lì, per carità. Purtroppo io non ho per altro nulla cosa fare. Si deve adattare a quello, quello già lo so, un altro, si deve adattare a questo. Ma che sono detto a dovemmo 4 anni, sono detto a dovemmo, senza travagliare, mi arrangiavo così, mi arrangiavo. Così è, oggi bisogna prendere quello che c'è, bisogna prendere questo che c'è, ma che non c'è altro. E cosa, un marino? Sono da grande che sono, da, mi pare da... Da dove? Da sabato mi pare, o da venerdì che non intendo. Anche lui mi sembra che non stava bene, serve a mare. Non lo so. Sono da venerdì scorso che non lo sento. E anche lui non stava bene, influenzato, pure da freddore, duscia. E così purtroppo. Hanno di bili Roma D e coso, io mi hanno cagato di andare a farmi un vaccino, andare a farmi. Ah, non è fare, non è fare. No, oh, me lo faccio, anche per questa cosa qua che è meglio. Io non l'ho mai fatto, e non ne posso. Sono già... Chiedo, è un terzo anno che non posso. Ah, no, ma qual è anti-influenza? Anti-influenza, allora. Per le cose che ho è meglio farlo. No, non ci ho mai fatto io, no. Cazzo, dammi tagliare di più. Io gioco con quest'anno, è il terzo anno che lo faccio, eppure gli altri 2 anni non ho avuto nulla, nulla che nulla, manco influenza. C'era gente che lo faceva questo vaccino qua, cazzo, gli arrivava tutte le mani. Ah, a me mi ha escluso tutto, mi ha escluso. Non ho preso nulla, solo che del raffreddore, però il raffreddore so come farmelo passare. E cosa passa? Attacchi pirina, aspirina. No, per bloccarlo devi usare quel coso spray, quelle cose ho fatto dal mare. Ho capito. Quella boccetta, eh. Infatti, quella lì. Infatti, quello lì, con quello lì io lo blocco. Andare. Andare, oggi pure che ha fatto caldo, eh. Anche oggi ho fatto una bella giornata. E abbiamo fino a domenica. Domenica cambia un pochino. Ehi, raga, non va. Guarda, lo va, tanto, poco fa, là, per poi, sempre segregati siamo. Infatti, purtroppo, il meglio così che poteva a Gabbio, a manco da Ciregge da Gaza. Sì, che io voglio entrare avanti, sembrava uno sotto, e niente. Sono tutti a letargo, sono oggi, non hanno voglia di entrare. Come non hanno voglia di entrare? Però io do dalle 5 alle 6 meno un quarto che ho iniziato a parlare con Bacchisio e Gian Maria. E ne sono andato a finire, a Magnasso. Adesso Bacchisio ha serrato. Non si poteva fare cosa e ha serrato. Sì, già, ma non vuole dire che cosa dire. Tanta chiusura, cosa vuoi fare? Io mi arrivo alle 8 meno 5 e poi chiudo. Che sono? Le 8, quasi. Meno 10, altre 5 minuti devi arrivare a 10. Sì, non c'è più una massa in questa frequenza, ma 8. Non c'è più nessuno. E sul 10 c'era un poco fa. E ha detto, ci sono quei 10 minuti, un quarto d'ora e basta. Così sono fermo. Andare. Gli impegni sono impegni. Non è più come una volta, che modulavamo dalla mattina fino alla notte. Bello bello. quelli erano altri tempi diversi da questi. Ah, vedrai che chi da oggi comincia l'ugoggio dalle 22 fino alle 5 del mattino, quindi rimangono segregati. E anche te credi che non riescono a mattersi, ma c'era la posta del blocco vicino a dove era, al bar Sarra. Oh, e io vado a prendere la signora da a Coso, a Sant'Orsola, e poi ritorno qua. E sabato non vedeva andare. E allora si attaccano a tutto. Adesso bisogna stare attenti a quando esci. Fino alle 18 puoi uscire a prenderti, ecco, fino alle 9, anzi fino alle 22 puoi uscire a prenderti la pizza, la cosa, e portartela a casa, e non ti boni di nulla, sempre usando la mascherina. Quindi fino alle 22, poi delle 22 non puoi più circolare. Sì, dopo le 22 puoi più andare, alle 22 devi essere già a casa. Infatti, i cosi, pizzerie e cose fino alle 22. È uno schifo, sta diventando uno schifo. Cazzo, non è possibile. No? Non è possibile perché con questo virus sta andando e peggiorando la situazione. Se non fanno così, non credessi. Ma butto, ne approfitto, dai, che mi stacco, che è arrivata gente, casomai ci sentiamo domani. Ok, ciao Manuel, ben sentito tutto quanto, dai, ci sentiamo domani, ok, ciao. Ciao Tom, buona serata.